mamma, mamma! Vorrei uno youtuber che sia divertente ed educativo, che faccia live tutte le sere e che abbia un ottimo rapporto con i suoi iscritti. Ehi, hey, ciao! Ragazzi, come stai? Stai bene? Io sono qua. 50 Cent Delinquenti, sono qua. Adesso? Voglio dare di bacio a tutti, ragazzi. Sono io, 50 Cent Delinquenti. Hai capito, ragazzi? Senti bene? Ciao, ci vediamo. Wow.